fatto di lasciare la città, A dove il caccia la felicità, Comba, dal mio paese giuro che non me ne vado. Quanto è bello se incontro un paesano. E come l'acqua quando faccia risolato. Sono felice, mangiando io e ballo tarantella. Vieni da noi, c'è solo vita allegra. Porto rispetto della calabrisella. Toccamo tutto già una famiglia e la terra. Calabrese vero vive di stretta di mano. Simo fatti coro, vieni da che ti ospitiamo. Brai a mare, insieme a festeggiare. Grigliamo pesce vino, roba che puoi sognare. Io non vado via, quanto tengo la mia terra solo Dio lo sa. Quando vado giù prendo mamma e me la stringo forte al petto. Fino alla morte obiettivo è con Jumun. Curivrate prenda Marimba Moon. Mentalità anni 90. Fratello benvenuto in Calabria. Mi hanno detto di lasciare la città, A dove il caccia la felicità, Comba, dal mio paese giuro che non me ne vado. Quanto è bello se incontro un paesano. E come l'alba quando faccia l'isolato. Ma ricorda che la gente qui ti ama. Portiamo a Sardegna in Germania. Facendo quanti spicci qua solo vita sfruttata. La strada da soli ce la siamo svenata. Chi fa il muratore, tu fatica a intumare. Qua c'è una da strada e se ne assaggiù da malana. Io non vado via, quanto tengo la mia terra solo Dio lo sa. Quando vado giù prendo mamma e me la stringo forti al petto. Fino alla morte obiettivo è con Jumun. Curivrate prenda Marimba Moon. Mentalità anni 90. Fratello, benvenuto in Calabria.